Meno male che ci sei tu, fammi compagnia. Meno male che ci sei tu. Meno male che ci sei tu a scaldarmi come il sole. Il cuore, la mente con amore non si ferma mai perché sa che fare. Senza pensare troppo a cosa c'è intorno, perché intorno c'è l'inferno. Scaldarmi come il sole, il cuore, la mente con amore non si ferma mai perché sa che fare, senza pensare troppo a cosa c'è intorno, perché intorno c'è l'inferno.